9.20 si arrivava. A Manetta. Rosso. Non sarà di più, no? Rimane sui 9.20 così. Anche così. Ci sei, Claudio? Così sono io. Ascolta, puoi andare in 80? Non c'ho l'antenna, ma si vede con gli 80, l'unica banda che non ho l'antenna. Peccato. Vabbè, ma in 40? 40 sì, non c'è problema. C'è Alessandro, con l'88, se non si, e siamo i 29. Ma quanti c'è, no? Hai passato qualche cosa perché ti sto sentendo. Ah beh, che stupido, c'è un pianotore inserito. Io non tocco mai niente. Sono uno dei pochi che quando fa le regolazioni, se voi mi dite tutto a posto, io lascio completamente tutto così com'è. Ho messo il pianotore perché mi sono spostato in 80, infatti sono collegato con un collega di Napoli. Stavo provando il settaggio in 80. Infatti ho trovato un altro tipo di settaggio dove andare, che va molto meglio, perché avevo una voce un po' troppo stridula e allora sto facendo un paio di regolazioni. Infatti volevo provare un attimino con te in 40 per vedere un po' come andava. Non c'è problema, io ci sono già in 40, dammi la frequenza. Aspetta un secondo, Sandro, che faccio una prova. Fino ai 40 metri con Massimiliano. Ecco, un attimo che ascolto prima. Dimmi la frequenza. Sono qua, non c'è problema. Quanto hai detto prima, Massimiliano, Sandro? Ti stavo dicendo che se sono 8.30. 8.50, sì, 9.22. 9.22. Ok, aspetta un attimo, Sandro.